Ed eccoci in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Dovrebbe esserci in corrispondenza con noi una compagna. Pronto, ci senti? Sì, non benissimo, però vi sento. Non benissimo, cercheremo, come si suol dire, di migliorare. Ma chiara, però si capisce cosa dite, insomma. Insomma, come abbiamo annunciato, siamo in diretta con te per parlare di quello che è successo rispetto alla manifestazione che del 12 per Giorgiana Masi e non solo, insomma, contro il femminicidio, eccetera, e al divieto della questura. Sì. Vuoi raccontare? Diciamo che un po' parto dall'inizio, perché la vicenda, insomma, è stata anche lunga e complessa, e sono entrati, cioè complicata, diciamo, andando avanti chiaramente con i giorni. Diciamo che la settimana scorsa noi ci siamo accorte che c'era questa marcia per la vita, era stata indetta questa marcia per la vita, che è stata pubblicizzata chiaramente a breve dall'appuntamento. E quindi abbiamo chiamato un'assemblea, chiamando più o meno le compagne e compagni che siamo riusciti a contattare nel breve tempo di 2 giorni, e questo sabato scorso, e nulla, abbiamo deciso di andare, diciamo, direttamente in questura a chiedere una manifestazione che in qualche modo parlasse, diciamo, veramente delle nostre vite, e veramente dicesse veramente, diciamo, dove sta la violenza, no? E quindi per questo abbiamo deciso di parlare di femminicidio, e abbiamo deciso di parlare di libertà, e chiaramente questo si lega benissimo alla storia, diciamo, al ricordo di Giorgiana Masi, che quel giorno, proprio il 12 maggio, purtroppo venne assassinata in una manifestazione che, ricordiamo, era una manifestazione che ricordava, diciamo, era l'anniversario della legge sul divorzio, in cui anche quella volta, diciamo, il governo Cossiga, Cossiga, chi per lui, insomma, decise di vietare quel corteo, che poi partì lo stesso. Quindi da una parte, per noi compagni e compagni, la giornata del 12 maggio è una giornata sempre, diciamo, importante, di memoria, di ricordo, di riaffermazione di libertà individuali, e di un punto fisso, diciamo, contro la repressione, in una vicenda che ancora, diciamo, non ha avuto giustizia e non è stata, diciamo, chiarita a livello, diciamo, pubblico e, diciamo, dei tribunali e quello che chi per loro. Io credo che oggi che il fatto che ci sia la marcia della vita proprio quel giorno chiaramente fa saltare dalle sedie, nel senso che può creare, diciamo, un sentimento ancora più forte, diciamo, di rabbia e di possibilità invece di scendere di nuovo in piazza contro, diciamo, questi fascisti, perché, diciamo, la posizione della marcia per la vita poi si può vedere, anche se loro si coprono, no, da questura, neanche hanno fatto la richiesta, loro come organizzatori non è che hanno fatto la richiesta in questura direttamente, ma è stato il Comune di Roma a chiedere che quel giorno, cioè a comunicare alla questura che quel giorno ci sarebbe stata una manifestazione sportiva. Questa chiaramente è una cosa sportiva assurda, perché si chiama marcia, questo sarebbe il motivo? Lo so, perché è il modo per dire che non c'è bisogno di forze dell'ordine. Penso che ora non so bene tutte le vicende, come vengono gestite queste manifestazioni, no? Però loro non ci saranno forze dell'ordine, no? Ci saranno solo, sai, queste cose di cui si fanno, tipo per quando ci stanno le giornate a piedi, tutte queste cose qua, che ci sono solo le transenne e i vigili, no? Che bloccano la strada, ecco. Loro hanno chiesto un ordine, diciamo, di questo tipo. Certo, perché quando manifestiamo noi ci militarizzano le strade, mentre quando ci sono questi criminali, perché di questo si tratta, visto i messaggi che portano in giro, oltre che fascisti, no, allora in quel caso invece può essere una bella giornata di sole, secondo il Comune di Roma. Sì, che poi mettono le transenne, ci saranno questi, l'anno scorso abbiamo visto che hanno le pettorine, no? Sono veramente fascisti delle varie organizzazioni, perché di quello si parla, con le pettorine, con gli auricolari, insomma, è orrendo come spettacolo, no? Questi si mascherano quel giorno, come non lo so bene, gente che gestisce il traffico, non so bene cosa, è veramente uno spettacolo orrendo. Allora, noi penso ci siamo oltre a parlare, ora la sto facendo forse troppo lunga, e penso che spero che comunque si continui a parlare, perché quel bisogno che c'è, che abbiamo sentito noi, è che è stato di smascherare prima di tutto quello che cos'è veramente la marcia per la vita. Questo è il primo bisogno che abbiamo sentito, e quindi abbiamo denunciato sia in questura, che ci stavano prendendo in giro e ci hanno provocato più volte, insomma, di dirci cose del tipo fate il corteo dopo di loro, tipo alle 4 del pomeriggio. Queste sono state le proposte assurde della questura, facendo lo stesso percorso, cioè cose proprio senza senso. E alla fine, insomma, ci hanno negato, noi abbiamo chiesto, no, abbiamo chiesto lo stesso percorso, chiaramente, perché giustamente loro non hanno nessun tipo di autorizzazione, volevamo fare lo stesso percorso. Loro chiaramente hanno detto no, non si può fare perché è già impegnato questo percorso. Allora noi abbiamo chiesto delle piazze adiacenti alla zona per gridare il nostro dissenso, per costruire la nostra giornata, perché insomma Masi non capiamo perché non doveva avere la stessa legittimità, anzi, cioè, insomma, non doveva avere quel giorno la legittimità di essere ricordato in corteo. Quindi abbiamo chiesto le piazze che arrivassero poi al Ponte Garibaldi, no? E nulla, loro ci hanno negato assolutamente tutto. Hanno negato un percorso che attraversasse la marcia per la vita, hanno negato un percorso che non attraversava affatto la marcia per la vita, ma che partiva da Campo dei Fiori, in una piazza vicina al loro percorso, in qualche modo, perché altrimenti ci hanno proposto dei luoghi assurdi. Quindi io penso che questa manfrina è andata avanti per 2 giorni, e la questione è che l'atteggiamento della questura è cambiato anche nei 2 giorni. Noi abbiamo avvertito anche chiaramente delle pressioni dall'alto, da un'ora all'altra, insomma l'atteggiamento era molto diverso, fino a vietarci del tutto qualsiasi, diciamo, autorizzazione. E quello che noi denunciamo nell'ultimo comunicato stampa è chiaramente l'asservimento della questura di Roma, che comunque, cioè, dovrebbe essere un potere, diciamo, di garanzia, no? Dal loro punto di vista è completamente... Beh, non lo è, insomma, questo lo possiamo, no, dire con certezza. Sarà servito al Vaticano, cioè alla città del Vaticano, che al Vaticano, al comune, insomma, c'è una connivenza molto forte, c'è uno stretto legame tra questi tre poteri, che c'è una ideologia che nei fatti si ravvisa di nuovo, c'è un fatto che comunica questo, no? Quindi questa è un'altra denuncia che vogliamo fare, insomma, per dire che, insomma, non è che queste forze cattoliche alla fine... No, se vogliono far vedere che stanno, loro pensano lì giù, non c'entra niente con la politica, perché poi è questo quello che loro stanno, l'operazione che stanno provando a fare. E niente, queste sono un po' gli aggiornamenti, un po' come è andata la gestione della cosa. Noi siamo state 2 giorni, eravamo vari gruppi di donne, di associazioni di donne, sportelle antiviolenza, insomma, eravamo una composizione soprattutto, diciamo, di gruppi di donne, collettivi, diciamo, auto-organizzati, associazione LGBT, perché chiaramente l'indignazione, o comunque c'è tanta rabbia rispetto a come viene segnalata e come viene portata avanti questa, diciamo, ideologia femminista, eccetera. E niente, però la risposta chiaramente, cioè, potevamo pure essere chissà chi, insomma. Il punto è che le acque non si smuovono sicuramente da parte di chi, insomma, c'ha ragione, no? Ma evidentemente sono altri poteri che decidono. Quello che noi diciamo è che oggi sarà oggi alle 16, alle 18 a Piazza Nino faremo un'assemblea pubblica, sarà un momento importante in cui più o meno noi quello che abbiamo deciso è di mantenere Piazza Campo dei Fiori, però oggi sarà anche una verifica in piazza per capire gli intenti, chiaramente, cioè se c'è volontà, che tipo di determinazione, che cosa più o meno si vuole fare, qual è il livello di tensione che si vuole alzare di fronte a un divieto. Quello che noi proponiamo è chiaramente di mantenere la manifestazione, con o senza autorizzazioni, di partire da Campo dei Fiori e arrivare a Ponte Garibaldi. Vedremo l'assemblea, diciamo, che cosa era, che cosa si propone, insomma. Va bene, quindi, insomma, appunto, l'assemblea oggi alle 18, quindi magari dopo l'assemblea ci risentiamo da questi microfoni per aggiornare, insomma, ma sì, diciamo, sì, che la determinazione ovviamente di Piazza Sannino. Sì, magari chiaramente faremo magari qualche diretta durante l'assemblea, vediamo insomma restiamo in comunicazione, perché è importante appunto che ci siano varie, no, si è amplificata insomma questa voce. Certo, e l'importante appunto è mantenere poi la determinazione a manifestare, anche perché insomma il 12 maggio è una data che non avremmo voluto, ma nel senso che che è l'anniversario dell'omicidio di una compagna, ma è una data nostra, insomma non è che se la possono prendere i preti e i loro e le loro guardie del corpo in camicia nera. Certo, no, è chiaro, la situazione è un po' così sconvolgente. Proviamo, noi siamo determinati comunque chiaramente più di prima, nel senso che non è che un'autorizzazione blocca, diciamo, le nostre volontà. Quello è stato un piano che abbiamo deciso di praticare, perché pensiamo che in qualche modo la questura doveva prendersi delle responsabilità rispetto a questa cosa. Ma questo, cioè, non è che, cioè, il problema non è l'autorizzazione, almeno quello è un fatto politico, ma le piazze, le strade le determiniamo al di là delle, diciamo, dell'autorizzazione della questura, questo sia chiaro. Va bene, ti ringraziamo. Grazie a tutti a starci all'assemblea di oggi e soprattutto alla giornata del 12, sin dalla mattina. Credo che l'appuntamento per ora è a Piazza Campresori, molto presto, alle 9 chiaramente, perché è lo stesso, proviamo a stare, diciamo, nelle strade nel momento in cui ci sono loro. Quindi, diciamo, un impegno militante, lo so, di domenica mattina tutti dicono sta cosa, però insomma è importante per tutti. E vabbè, insomma, se è domenica, è di domenica mattina. Del resto, se fosse stato un giorno feriale saremmo stati a lavorare, quindi ci sarebbe stato un altro problema, insomma. E niente, ti ringraziamo e a oggi pomeriggio alle 18 in Piazza Sonnino. Grazie. Sì, ci aggiorniamo, grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.